Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. E con questo giuramento, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, è nato dunque il nuovo governo, il governo Gentiloni. Naturalmente poi dopo Paolo Gentiloni hanno giurato poi tutti i ministri, che sono 18, con molte conferme soprattutto e poche novità, tant'è che dalle opposizioni è arrivata l'accusa, è un Renzi bis, è un governo fotocopia, è un Renziloni, qualcuno l'ho anche definito, insomma poi ne parleremo ampiamente, cercheremo anche di capire che interpretazione politica dare a queste scelte, di che durata potrà essere questo governo, quali sono le priorità, perché aver scelto un ministro, una ministra in una certa collocazione anziché in un'altra, eccetera eccetera. Per esempio si discute molto la presenza ancora della ministra Boschi, poi Alfano che dal Ministero dell'Interno passa a quello degli Esteri, insomma ce ne occuperemo ampiamente. E vi ricordo che per la vostra interazione qui a Effetto Notte, come sempre, c'è la pagina Facebook del programma oppure il numero per messaggi WhatsApp, per SMS WhatsApp, che è il 349-238-6666. Tra poco vi racconto la giornata in breve. Naturalmente ci occuperemo anche di altri temi, per esempio le novità, gli sviluppi che arrivano dall'inchiesta di Saronno per le morti sospette in ospedale. Insomma, non perdete un solo minuto, come sempre, di Effetto Notte, e comincio dal racconto della giornata. Nasce il governo Gentiloni, 18 i ministri, molte conferme, 5 new entry, Alfano agli esteri, Boschi sottosegretario, Lotti allo sport, stroncatura da parte delle opposizioni, D'Alema attacca, dice così saremo travolti alle elezioni, lo strappo di Verdini, non voteremo la fiducia, dice. La direzione del PD, Renzi fa gli auguri al nuovo presidente del Consiglio, chiede di anticipare il congresso e ribadisce che il Partito Democratico non teme il voto, ma Roberto Speranza avverte o il partito cambia rotta o muore. Borsa Wall Street cauta, Milano tiene con i petroliferi, bene MPS. Occupazione in calo, i contratti stabili, aumentano i licenziamenti, il PIL spacca l'Italia, Aosta prima per qualità della vita nel rapporto del Sole 24 Ore. Il rogo alla Thyssen, nelle motivazioni del verdetto che ha confermato le condanne per il rogo che provocò la morte di 7 operai, la Cassazione parla di colpa imponente dei manager. Calcio, i sorteggi della Champions con la Juve che pesca il Porto, al Napoli il Real Madrid e il pallone d'oro va per la quarta volta a Ronaldo. E poi per i posticipi di Serie A, finita adesso la partita Fiorentina-Sassuolo per 2-1, in campo ci sono Roma-Milan. Partiamo quindi dalla nascita di questo nuovo governo Gentiloni. Circa un'ora fa Paolo Gentiloni, incaricato dal Presidente della Repubblica Mattarella, ha giurato insieme ai suoi 18 ministri, tra i quali ci sono molte conferme, vi dicevo, 5 nuovi nomi. Ne parleremo molto dopo, ma facciamo qualche nome. Alfano che va agli esteri, Minniti all'interno, Fedeli all'istruzione, Lotti allo sport, Madia alla semplificazione, Boschi sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Gentiloni ha detto: ho fatto del mio meglio per formare il governo nel più breve tempo possibile, garantendo la stabilità. E poi ha detto anche: faciliteremo il lavoro dei partiti per la nuova legge elettorale. Domani vi anticipo che dalle 11 dovrebbe esserci il voto alla Camera per il nuovo governo. E per quanto riguarda le opposizioni, Movimento 5 Stelle e Lega hanno disertato le consultazioni. Grillo lancia una manifestazione entro il 24 gennaio, che è la data in cui la consulta dovrebbe pronunciarsi sull'Italicum. Di Maio del Movimento 5 Stelle ammonisce: il nostro momento sta arrivando. E poi il Carroccio, la Lega, dice che non voterà la fiducia. Verdini ha avvertito no alla fiducia senza rappresentanza. Un no scontato alla fiducia, quello che le opposizioni recapitano a Gentiloni. Una bocciatura del nuovo esecutivo che però è espressa in modi diversi. Assente già alle consultazioni con il premier designato, la Lega salterà anche l'appuntamento con le aule di Camera e Senato, così Salvini. Non faremo parte del palazzo che alla faccia degli italiani darà l'ok a un governo imbarazzante. Saremo in piazza sabato e domenica, aggiunge quindi Salvini, per raccogliere le firme per tornare subito al voto. Assente alle consultazioni con Gentiloni, ma pronto a scendere in piazza anche il Movimento 5 Stelle, che, scrive Grillo sul blog, organizzerà una grande manifestazione per la dignità dei cittadini entro il 24 gennaio, data dell'udienza della consulta sull'Italicum. Legge elettorale o voto entro marzo, la richiesta intanto della Meloni, Fratelli d'Italia. Per noi entro marzo si deve andare a votare. votare. La nostra sarà un'opposizione senza sconti, ma comunque seria e costruttiva, fa sapere invece Forza Italia al termine delle consultazioni. Quanto alla legge elettorale, ci sarà un tavolo del centrodestra, annuncia Brunetta. Non voteremo la fiducia a questo governo perché si muove in continuità con quello precedente, la posizione infine di Sinistra Italiana. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E vi dicevo poco fa dello strappo di Verdini che ritiene insomma che non ci sia stata rappresentanza, nel senso non hanno avuto un ministro diciamo in quota di ala, questo è il movimento. E Alfano, che adesso è passato dagli esteri come vi dicevo all'interno, ha dichiarato pochi istanti fa, lo dico con chiarezza, noi eravamo pronti all'ingresso di ala, cioè il partito di Verdini, in maggioranza. Questo ha detto. Nel PD oggi c'è stata la direzione con Matteo Renzi che ha fatto gli auguri al nuovo governo, mentre la minoranza è andata all'attacco dell'ex presidente del Consiglio. Dal Nazareno arriva un via libera unanime alla fiducia al governo Gentiloni, ma fra i democratici si accende il confronto interno in vista del congresso, un passaggio auspicato dallo stesso Matteo Renzi nel corso della direzione. Se si fa un congresso, e io vorrei farlo, ma sarà l'assemblea a deciderlo, sapendo che c'è un appuntamento imminente con le elezioni, perché è evidente che nell'arco dei prossimi mesi noi andremo a un passaggio di elezioni politiche. O si cambia rotta o si muore, avverte invece l'opposizione interna che incalza. Il segretario Renzi dica con chiarezza se nel PD c'è ancora spazio per chi al referendum ha votato no, come fatto anche da parte dell'elettorato democratico, dice Speranza. Non ci porta lontano la sicurezza di chi crede di avere in tasca il 40%. È un'illusione sbagliata e pericolosa che sembra quasi una sfida agli oltre 19 milioni di italiani che hanno votato no. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Tra poco naturalmente ci torniamo, come avevo detto. Adesso parliamo di occupazione. Con questi dati sono in calo i contratti stabili, aumentano i licenziamenti. Nel terzo trimestre 2016 le assunzioni stabili sono state 406.691, meno 18,7% sul 2015 a fronte di 483.162 cessazioni, come riferisce il Ministero del Lavoro. Il dato risente della riduzione degli incentivi. L'Istat rileva al sud, tra l'altro, un PIL pro capite di 17.800 euro, inferiore del 44,2% rispetto al centro-nord. E nell'indagine annuale del Sole 24 Ore sulla qualità della vita fa la provincia di Aosta è prima davanti a Milano e Trento, Vibo Valentia è l'ultima, proprio fanalino di coda, rispetto all'edizione dell'anno scorso, balzo in avanti di Pordenone che ha guadagnato 43 posizioni dal 60esimo, è andata al 17esimo. Sentiamo il sindaco Alessandro Cirignani intervenuto ad Effetto Giorno. Il tema della sicurezza qui non è quello prioritario, anche se viene gestito con grande oculatezza. Devo dire che la fortuna di questo territorio non è ascrivibile esclusivamente alle politiche degli amministratori, ma anche alla qualità della nostra gente. Insomma, qui c'è grande decoro, c'è la gara che tiene bene i parchi, che tiene pulite le strade, che tiene pulite le proprie case. Quindi è una somma di elementi positivi che è legata poi alla qualità sanitaria, a una vitalità culturale straordinaria, nonostante siamo un territorio molto piccolo. A una gestione dei siti sociali all'avanguardia, noi abbiamo sperimentazioni che sono diventate oggetto anche di analisi internazionale, quindi questi elementi qualificano ovviamente un territorio e fanno fare questi salti in avanti. In coda invece vi dicevo purtroppo Vibo Valentia, città calabrese, mentre Olbia ha perso 53 posizioni. Sentiamo il sindaco Settimo Nizzi. Disarmante averlo così con i dati, con gli indicatori che sono stati utilizzati. C'è crisi vera. Però aver perso tutte queste posizioni, bisognerà quanto prima entrare nel merito. Che ci sia un aumento della disoccupazione è innegabile, che ci sia una riduzione del lavoro in generale, anche del commercio. Nonostante tutto c'è un aumento delle persone, dei turisti che arrivano e partono. Per cui c'è questa grossa discrepanza sulla quale naturalmente bisogna iniziare a discutere. Vediamo adesso le borse. Quelle europee hanno chiuso contrastate. Non è bastato il buon andamento dei titoli petroliferi per portare nuovi acquisti. Londra, Parigi e Francoforte hanno chiuso in leggero calo, mentre Milano si è mossa in controtendenza col FTSE MIB a più 0,42%. Gli acquisti hanno riguardato soprattutto Eni, fra i bancari bene MPS. L'ultimo tentativo per evitare la nazionalizzazione di MPS passa per la conversione volontaria di circa 2 miliardi di bond subordinati in mano ai piccoli risparmiatori. Così ha scelto il CDA della banca, che punta a riunirsi mercoledì per dare il via all'operazione e a ricevere, tra oggi e domani, l'ok della Consob. L'autority deve approvare le modifiche al prospetto e autorizzare la banca ad allargare la platea dell'offerta, superando i vincoli della cosiddetta adeguatezza bloccante. Certo è che l'operazione di salvataggio da 5 miliardi di euro, dopo il no alla proroga da parte della BCE, che deve ancora formalmente arrivare sul tavolo del board, deve chiudersi necessariamente entro il prossimo 31 dicembre. JP Morgan e le altre banche sono pronte a un collocamento lampo di azioni, rivolto a investitori istituzionali, che, auspicabilmente, si vorrebbe far partire questa settimana e chiudere in pochi giorni. Resta da capire se il fondo del Qatar garantirà il suo supporto. Oggi il titolo è salito del 3,7% intanto, e ci sarà da mettere in conto ancora volatilità. Se l'operazione di mercato dovesse andare male, resta la rete di protezione del governo, che è pronta ad aprirsi in caso di necessità. Luca Davi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E oltreoceano Lockheed Martin brucia 4 miliardi di capitalizzazione di mercato invece dopo le critiche via Twitter di Donald Trump. Il presidente eletto americano ha criticato il programma degli F-35 e i suoi costi definiti fuori controllo. Quanto alla sua squadra, il presidente ha confermato la nomina del generale dei Marine a riposo John Kelly come prossimo segretario all'Homeland Security, il ministero degli interni statunitense. Dice: vorrei coinvolgere, tra l'altro, nella sua amministrazione mia figlia Ivanka e il marito, così ha detto Trump in TV. Restiamo all'estero, in Turchia, col pugno duro del presidente Erdogan dopo l'attentato costato la vita a 40 persone. Sono oltre 230 gli arresti, soprattutto di membri dell'HDP, il partito di opposizione filo-curdo, dopo l'attentato di sabato sera vicino allo stadio del Beşiktaş ad Istanbul. Attacco nel quale hanno perso la vita 40 persone, 155 sono rimaste ferite, e che è stato rivendicato dal gruppo armato che si fa chiamare i Falchi per la Libertà del Kurdistan, una costola del PKK. E proprio con il PKK sono accusati di avere legami tutti gli arrestati. Le retate sono state condotte in molte città del paese, da Istanbul ad Ankara, da Gaziantep ad Adana, da Mersin ad Izmir. Una vasta operazione per la quale nella sola città di Adana sono stati utilizzati circa 500 agenti. Tra le persone fermate anche i responsabili delle sedi provinciali di Ankara, Ibrahim Binici, e di Istanbul, Aysel Güzel. Nei mesi scorsi erano già stati arrestati con accuse simili il sindaco di Diyarbakır e i due copresidenti dell'HDP, Selahattin Demirtas e Figen Yüksekdağ. L'Hürriyet riporta anche la notizia dell'irruzione di un uomo armato, poi arrestato dalle forze dell'ordine nella sede dell'HDP di Balıkesir, che avrebbe urlato: se voi uccidete la polizia, io vi sparo. Marco Barbonaglia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Istanbul. Di nuovo in Italia corrogo la Thyssen nelle motivazioni del verdetto che ha confermato, riducendole lievemente, le condanne per il rogo che provocò la morte di 7 operai. La Cassazione parla di colpa imponente dei manager, dicendo: è stata una colpa imponente quella commessa dall'ex amministratore delegato della Thyssen, che insieme ad altri 5 manager del gruppo siderurgico ha provocato, per la totale consapevole mancanza di adeguate misure di sicurezza, il rogo dello stabilimento di Torino nella notte tra il 5 e il 6 dicembre del 2007. E poi, a proposito invece dell'inchiesta delle morti sospette in corsia nell'ospedale di Saronno, l'ex direttore sanitario ha detto, Paolo Valentini: se consapevole avrei denunciato, se avessi scoperto qualcosa lo avrei segnalato ai PM. È stato ascoltato oggi appunto dai magistrati, ne parleremo degli sviluppi di questa vicenda più tardi. E poi, omicidio di Dina Dore, la Corte d'Assise d'Appello di Sassari ha confermato l'ergastolo per Francesco Rocca, il dentista di Gavoi, vicino Nuoro in Sardegna, accusato di essere il mandante dell'omicidio della moglie Dina Dore, uccisa nel garage dell'abitazione della coppia nel centro del paese il 26 marzo 2008. I giudici hanno pronunciato la sentenza dopo circa 6 ore di camera di consiglio. Per il delitto è già stato condannato a 16 anni come esecutore materiale un giovane di Gavoi, Pierpaolo Contu. Piazza Fontana, oggi Milano ha ricordato le vittime della strage di Piazza Fontana con una manifestazione a cui hanno partecipato circa 500 persone di fronte alla sede di quella che era la Banca Nazionale dell'Agricoltura, dove ci fu l'attentato il 12 dicembre del 69, che è costato la vita a 17 persone, dove esplose la bomba. Sono state deposte le corone delle istituzioni. E poi una buona notizia per quanto riguarda l'arte: torneranno in Italia dall'Ucraina il 21 dicembre prossimo i 17 capolavori, vi ricordate, tra i quali Mantegna, Tintoretto, Rubens, Rapinelli, nati nel novembre 2015 al Museo di Castelvecchio a Verona e ritrovati poi nel maggio 2016 in Ucraina, che ha da allora poi custodito questi capolavori. Lo ha reso noto il sindaco di Verona, Flavio Tosi. Per chiudere il calcio, con varie notizie, di cui però parleremo soprattutto poi in un altro spazio di Effetto Notte questa sera, il pallone d'oro che è tornato di nuovo per la quarta volta a Cristiano Ronaldo, poi sorteggi di Champions, ci sono stati oggi con la Juve che ha pescato il Porto, il Napoli, il Real Madrid. Invece invece adesso per il momento Dario Ricci ci aggiorna sulle partite, i posticipi di Serie A, vero Dario? Sì, eccomi qua Roberta. Beh, ricordiamo che la Fiorentina ha battuto per 2-0 il Sassuolo con una doppietta di Kalinic, ma è in corso il big match dell'Olimpico tra le due seconde del campionato, chissà chi vincerà tra Roma e Milan per lanciarsi all'inseguimento della Juventus capolista. Intanto siamo al 15° di gioco all'Olimpico, il risultato è ancora sullo 0-0, meglio la Roma in questa prima fase di gioco, vicino al vantaggio già dopo 1:30 con un potente destro di Dzeko, capocannoniere della Serie A insieme a Icardi, lo ricordo, con 12 reti, pronto Dzeko a calciare in rete, prontissimo Donnarumma a salvare in calcio d'angolo e dopo appena un minuto da questa occasione un colpo di testa debole e centrale di Fazio, il difensore giallorosso, che in questa occasione, in quel caso, non ha certo creato problemi a Donnarumma. 15° di gioco in questo istante, ancora 0-0 all'Olimpico tra Roma e Milan. Grazie Dario Ricci, a dopo. E prima di lasciarci brevemente per aggiornare chi viaggia, alcuni vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il 349-238-6666, che è il numero per SMS e WhatsApp. Domenico dice: per fortuna Alfano non è più ministro dell'interno, poi per il resto hanno i numeri, ma devono tenere conto di cosa hanno detto gli italiani al referendum. E a questo proposito Silvestro scrive: cara Roberta, pensavano che votando no avrebbero mandato a casa Renzi e compagnia bella, questo è stato un errore o di negligenza o di odio politico, senza leggere o approfondire il referendum avevamo una grande possibilità di cambiamento, invece tutto è tornato indietro come un boomerang per i signori del no. Ora cosa vogliono? Sperano? Dimmelo tu, chiede a Silvestro, non lo devo dire io Silvestro, ma tra poco parleremo ampiamente della pagina politica, tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, sempre Roberta Giordano con voi, vedo i vostri messaggi appunto su varie valutazioni dei vari ministri del nuovo governo di cui parleremo adesso. Dice Vittorio: il quesito del referendum era chiaro, non ho letto nulla che parlasse di governi, dice, come coloro che insomma criticano il fatto che però un governo di transizione, adesso cercheremo di capirne la durata, insomma chi può dirlo fino in fondo, ci voleva almeno per, diciamo, gli affari correnti, le emergenze, le priorità. Continuate col 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. C'è Laura che scrive: la parlamentare più femminista è stata nominata ministra dell'istruzione, quindi si riferisce Valeria Fedeli, ovvero messa a capo di un settore strategico per promuovere il cambiamento culturale che le donne di questo paese aspettano da decenni. I'm happy, dice Laura, è contenta. Bene, ci fa piacere. Allora, vi ricordo quali sono prima di tutto le notizie più importanti e poi cominciamo ad approfondire i temi. Nasce il governo Gentiloni, ha giurato domani alle Camere, ci sarà la fiducia, il voto di fiducia, Alfano agli esteri, Boschi sottosegretario alla presidenza, Lotti allo sport e poi naturalmente si è tenuta anche la direzione del PD, Renzi ha detto ci vuole prima il congresso poi le elezioni, ha dato via libera al nuovo esecutivo, unanime da parte della direzione del PD e poi però la minoranza ha detto serve una nuova rotta. MPS rilancia l'operazione mercato, il titolo vola in borsa e poi per quanto riguarda l'occupazione in calo i contratti stabili, aumentano i licenziamenti, il PIL spacca l'Italia, Aosta è prima nella classifica del Sole 24 Ore per la qualità della vita. E poi Aleppo, per quanto riguarda la Siria, nelle mani dei lealisti controllano ormai il 96% del territorio. ThyssenKrupp per il rogo del 2007 in cui morirono 7 operai, la Cassazione ha scritto nelle motivazioni di condanna fu colpa imponente dei manager. E poi per la Champions League abbiamo sentito quali sono stati i sorteggi e c'è in corso la partita nel posticipo di Serie A Roma-Milan sempre 0-0. Ho fatto del mio meglio per formare il nuovo governo nel più breve tempo possibile, per aderire innanzitutto all'invito del Presidente della Repubblica e credo anche nell'interesse della stabilità delle nostre istituzioni alla quale guardano le italiane e gli italiani. Avete sentito quindi la dichiarazione come riassunto, insomma, tanti sono stati passaggi, ma come riassunto Gentiloni, il nuovo Presidente del Consiglio, e ciò che ha fatto rispondendo appunto alla richiesta di Mattarella e cercando di dare, dice, un governo a questo paese nel più breve tempo possibile. Quindi ha accettato l'incarico, c'è stato il giuramento, ne avete sentito un passaggio all'inizio e Tutto questo ovviamente dopo la vittoria del no, quindi poi le dimissioni di Renzi, la crisi di governo, finché Mattarella ha dato l'incarico a Gentiloni e oggi si è stato formato il nuovo governo. Sembrava che dovesse arrivare domani, invece appunto ha parlato Gentiloni di tempi stretti. Oggi si è formato il nuovo governo, hanno già giurato sia il Presidente del Consiglio che i 18 ministri. Sono molte conferme, adesso sentiremo anche dalla sua voce quali sono i ministri con portafoglio e senza portafoglio. Ci sono solo 5 nomi diversi, diciamo, che non erano prima, non facevano parte del governo, e questo ha fatto urlare da molta parte dell'opposizione al Renzi bis, al governo fotocopia, al Renziloni, insomma, e varie battute, squadra che perde si conferma e così via. Allora vogliamo sentire i ministri con portafoglio, anzi i ministri prima senza portafoglio quali sono? Ministri senza portafoglio, la senatrice Anna Finocchiaro, alla quale intendo conferire l'incarico dei rapporti con il Parlamento. L'onorevole Marianna Madia, a cui conferirò l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione. L'onorevole Enrico Costa, incarico per gli affari regionali. Il professor Claudio De Vincenti, incarico per la coesione territoriale e il Mezzogiorno. Onorevole Luca Lotti, incarico per lo sport. Questi ministri senza portafoglio, avete sentito Lotti che è un fedelissimo di Renzi allo sport, qualcuno è rimasto un po' sorpreso, ma adesso sentiamo quali sono i ministri con portafoglio, quindi i ministeri diciamo più importanti. Ministri con portafoglio. Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, onorevole Angelino Alfano. Ministro dell'Interno, senatore Marco Minniti. Ministro della Giustizia, onorevole Andrea Orlando. Ministro della Difesa, senatrice Roberta Pinotti. Ministro dell'Economia e delle Finanze, professor Piercarlo Padoan. Ministro dello Sviluppo Economico, dottor Carlo Calenda. Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, dottor Maurizio Martina. Ministro dell'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare, dottor Gianluca Galletti. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dottor Graziano Del Rio. Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, signor Giuliano Poletti. Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, senatrice Valeria Fedeli. Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, onorevole Dario Franceschini. Ministro della Salute, onorevole Beatrice Lorenzin. Proporrò quale sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri, l'onorevole Maria Elena Boschi. Quindi avete sentito l'elenco completo, adesso poi ci vorrà un pochino per impararli tutti, però tanti sono stati riconfermati ai loro dicasteri. Ne parliamo con Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore. Ben trovato Guido. Buonasera. Buonasera. Allora abbiamo sentito appunto conferme, alcuni nuovi nomi, mi circola una domanda nella testa che non è la questione principale Guido, però siccome ho sentito nella ricostruzione di un servizio su un TG Rai 2 o 3 giorni fa che Renzi era piuttosto avvelenato nei confronti della ministra dell'istruzione Giannini, perché diceva buona parte dell'odio nei miei confronti e motivazione del no al referendum è dovuto alla riforma della scuola. È uno scaricabarile questo di Renzi o effettivamente è fondato questo? Ma certamente la riforma della scuola, sotto l'etichetta la buona scuola per l'appunto, era una delle bandiere che aveva alzato Renzi fin dall'inizio del suo governo. E, la riforma c'è stata e i risultati probabilmente non erano quelli attesi, perché sappiamo che ancora oggi per ascoltare anche la voce della realtà si sente che tanti genitori lamentano che non ci sono i professori ancora assegnati nelle classi e siamo quasi a Natale. Quindi ha funzionato forse sicuramente la parte in cui sono stati inseriti circa 100.000 precari che hanno avuto un contratto e quindi si è stabilizzato il loro lavoro. Dal punto di vista della qualità le attese erano molto alte, probabilmente i risultati sono molto più bassi, però da qui a dire che poi colpa questo sua, sia uno dei motivi principali della crisi, francamente poi, io non ci credo. No, non ci credo neanch'io. Senti Guido, allora, poi al suo posto era Giannini, comunque Valeria Fedeli, di cui per questa nomina si felicitava questa ascoltatrice, ma a questo punto, adesso al di là dei nomi, per esempio il fatto di questa composizione della ministra Boschi, che comunque rimane e diventa sottosegretaria alla presidenza del Consiglio, questo schieramento, quindi questa squadra, che cosa ci dice? Qual è l'orizzonte politico e soprattutto il significato di questo governo, Guido? Ma insomma, la composizione del governo suggerisce qualcosa, nel senso che evidentemente Renzi è riuscito, diciamo, in un'operazione complicata oggettivamente, dopo il risultato negativo, molto negativo del referendum del 4 dicembre, è riuscito comunque a mantenere alcune posizioni nel governo che erano a lui, diciamo, molto care, perché erano, diciamo, i suoi più stretti collaboratori, che oggi, parlo, diciamo, di Maria Elena Boschi, che dalle riforme passa sul ponte, diciamo, di comando del governo, proprio a Palazzo Chigi come sottosegretario, e Luca Lotti, per il quale si crea addirittura un ministero nuovo, quello dello sport. Effettivamente questi qui erano due stretti collaboratori di Renzi, che hanno ritrovato, diciamo, una posizione, mentre alla vigilia si poteva immaginare che segnali più forti di discontinuità avrebbero suggerito, diciamo, altre scelte. Così non è stato, quindi è stato fatto, secondo me, una soluzione abbastanza compromissoria, diciamo, tra l'esigenza di mantenere sostanzialmente la struttura del governo Renzi e l'altra di dare qualche segnale di novità, perché insomma questo governo ovviamente io non credo che abbia un orizzonte, non aveva nemmeno prima l'orizzonte di lunga durata, secondo me, dici? Esatto, per arrivare alla fine naturale della legislatura, e cioè nel 2018. Però da qui invece a dire, come qualcuno ha sostenuto, che bisogna andare a votare subito a marzo, beh, effettivamente ne corre, perché sappiamo che per esempio questo governo avrà il compito importantissimo. Ecco, le priorità, infatti, quali sono, Guido? Diciamo la legge elettorale, quindi per rendere omogenee, perché non si può andare a votare con due diverse leggi elettorali, una alla Camera e una per il Senato, come sappiamo. E quindi questa è una delle prime esigenze, ma poi ce ne sono tantissime altre che sono molto importanti. Dal punto di vista economico e finanziario, il caso, diciamo, Monte dei Paschi, e in più in generale, diciamo, l'attenzione che deve essere massima su il sistema bancario, perché è uno degli aspetti decisivi, diciamo, per l'economia italiana e per il sistema Italia. E poi c'è un difficile negoziato anche con l'Europa, che potrebbe arrivare a marzo con un'indicazione di in qualche modo obbligarci a una manovra correttiva. Adesso non sappiamo ancora per quanto ammontare, ma noi sappiamo che non abbiamo rispettato la regola del debito, non abbiamo rispettato le regole che riguardano il deficit o gli impegni che abbiamo preso sul fronte del deficit, e quindi è possibile una manovra correttiva. Quindi insomma di carne al fuoco ce n'è parecchia, oltre ovviamente una serie di appuntamenti internazionali importanti come la presidenza del G7 a Taormina a fine maggio. Quindi io, diciamo, prevedevo nei giorni scorsi la possibilità di andare sia a votare prima della scadenza naturale della legislatura, cioè intorno magari a giugno del 2017. Ora ovviamente la composizione di questo governo e anche questa polemica che c'è stata con ALA, il gruppo dei verdiniani, i quali per il momento non votano la fiducia, al Senato sono 18, non sono decisivi formalmente per la tenuta della maggioranza, ma è chiaro che senza questo contributo si balla sul filo di pochi voti. Perché Verdini aveva detto: senza rappresentanza noi non votiamo la fiducia, cioè volevano un ministero niente anche fiducia, loro. Esatto, niente fiducia senza però rappresentanza. E quindi è stata fatta questa scelta, e beh, insomma, quindi vedremo, perché, diciamo, per quanto riguarda il profilo di stabilità di questo governo, per esempio avere questi numeri così scarsi, diciamo, di margine al Senato sono oggettivamente un problema. Senti, che cosa significa che poco fa, pochi istanti fa, appunto questa dichiarazione di Alfano tramite le agenzie, lo dico con chiarezza, noi eravamo pronti all'ingresso di ala in maggioranza, cioè del partito di Verdini, ha voluto prendere le distanze, ha voluto specificare che loro... Ma forse ha voluto, siccome diciamo le voci diciamo davano una sostanziale contrarietà del nuovo centrodestra, diciamo della formazione cui fa capo Alfano, contraria all'entrata diciamo di ala dentro il governo, probabilmente lui ha voluto specificare che le cose noi non sono andate così, esatto, e che non c'era un veto loro, però di fatto voglio dire è chiaro che questo complica un po' le cose in termini di numeri. Mi colpisce anche la dichiarazione che ha fatto un politico di lungo corso come Massimo D'Alema, che ha detto con questo governo rischiamo di prendere alle prossime elezioni, quando andrà a votare, una bella batosta. Che ne pensi? Cioè, ecco, e quindi questo, vuol dire, questo dà anche l'idea di quello che sarà il confronto prossimo, nelle prossime settimane, all'interno del PD, che è il partito che ovviamente ha la responsabilità di tenere in piedi questa maggioranza di governo, e quindi lì si annuncia un confronto durissimo, secondo me. C'è Andrea sulla pagina Facebook di Effetto Nota che dice: è un meraviglioso Renzi bis. Elena scrive: preferivo il precedente. Michele dice: manca il Ministero delle Pari Opportunità, ma quello di cui manca da un pezzo. Senti, a proposito di Renzi bis, naturalmente le opposizioni si sono indignate. Sì. Il Movimento 5 Stelle e Lega hanno disertato le consultazioni. Grillo ha lanciato una manifestazione di piazza entro il 24 gennaio, cioè quando la consulta dovrebbe dare il suo parere sull'Italicum. Il Carroccio, la Lega, ha fatto sapere che non parteciperà alle votazioni per la fiducia. Salvini dice: non è un governo, è una mucchiata di poltronari. E anche Sinistra Italiana ha detto che più che un governo sembra un fortino assediato. Stiamo parlando di un Renzi bis camuffato, dice Sinistra Italiana, un passato bocciato sonoramente dagli italiani. Sinistra Italiana non darà la fiducia a questo governo. Poi Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle ha scritto su Facebook: hanno paura del voto, è chiaro, hanno fabbricato l'ennesimo governo in provetta, quindi che non è passato attraverso le elezioni, pensando di poter fermare la rivoluzione gentile che compiono i cittadini italiani ogni volta che sono chiamati a votare, ma non ci riusciranno, si stanno scavando la fossa con le loro mani. Dice: pensano di poter tirare a campare fino alla pensione parlamentare, no? Come dicono diciamo i maliziosi, che bisogna arrivare a ottobre 2017 perché i parlamentari nuovi maturino la pensione, no? Dice: intanto faranno le nomine delle grandi aziende di Stato, sono degli illusi. Che dici, Guido? Ma insomma, sono da parte del... E l'opposizione certamente sarà un'opposizione dura, durissima nel caso del Movimento 5 Stelle e della Lega, e dura da parte di altre formazioni come Forza Italia di Berlusconi, i conservatori riformisti di Fitto. Insomma, sarà un'opposizione che non farà sconti, diciamo, mi pare, da questo punto di vista, e quindi avrà politicamente ovviamente tutto l'interesse perché questo governo inciampi il prima possibile e nei modi peggiori possibile, quindi da questo non mi sembra una grande novità. Il più interessante è il discorso a sinistra su questo terreno, in particolare, ripeto, all'interno del PD. A questo proposito, allora, Guido, visto che lo citi, sentiamo cosa ha detto Bersani, ex segretario PD. La fiducia, il sostegno, la stabilità la garantiamo, si è capito, no? Perché siamo responsabili. Dopodiché sui singoli provvedimenti le cose, per quel che mi riguarda, devono convincermi. Ecco, devono convincere la minoranza PD, il governo, perché voti... No? Questo significa che su alcuni provvedimenti di volta in volta che saranno votati, al di là della generica affermazione che ovviamente questo partito, cioè il PD, sosterrà la maggioranza, ovviamente dice Bersani, ma questo secondo me è inevitabile anche dopo il risultato che c'è stato con il referendum, di volta in volta valuteremo i singoli provvedimenti e se del caso diremo la nostra e magari voteranno contro, insomma. Quindi per questo io dico che non bisogna anche vedere soprattutto quello che maturerà o non maturerà all'interno del PD, perché qui poi è il terreno della prossima sfida di Renzi. Insomma, a proposito della sfida di Renzi, sentiamo un passaggio di Renzi oggi alla direzione del PD. Se si fa un congresso, e io vorrei farlo, ma sarà l'assemblea a deciderlo, sapendo che c'è un appuntamento imminente con le elezioni, perché è evidente che nell'arco delle prossime, dei prossimi mesi noi andremo a un passaggio di elezioni politiche per i motivi che tutti noi abbiamo detto più volte e che hanno detto, devo dire, anche gli altri, anzi più gli altri di noi. Quindi Renzi dice bisogna anticipare il congresso del PD, così si cominciano a prendere le decisioni, a capire insomma chi conta, contiamoci eccetera, e poi dice si va a elezioni. I maliziosissimi dicono si doveva ritirare e invece lì pronto di nuovo al salto. Tra l'altro l'ha detto addirittura a vita privata, no Guido? Sì, all'inizio aveva detto questo, poi questo l'aveva in parte corretto, diciamo, cioè di ritiro totale dalla politica, insomma. E quindi ha mantenuto, diciamo, la promessa che riguarda le dimissioni da Presidente del Consiglio. Da Presidente del Consiglio e dal Governo, e ovviamente si prepara a rivincere, se possibile, dal suo punto di vista, la sfida all'interno del PD e ripresentarsi alle elezioni per ritornare a Palazzo Chigi. Però questo dipenderà molto anche, appunto, dai risultati che otterrà questo governo, ecco, perché su questo secondo me... Visto che c'è la continuità, dici, naturalmente. Sì, su questo D'Alema comunque ha ragione, cioè, nel senso, cioè, vedremo, perché lui dice che saranno risultati pessimi e quindi io non dico questo, però dobbiamo, diciamo, come dire, su questo sospendere diciamo, il giudizio, perché è chiaro che se i risultati non saranno quelli delle attese, effettivamente creerà un problema all'interno del PD. C'è ancora del tempo per vedere cosa succederà, intendo dire questo. Intanto ci fermiamo, domani appunto si voterà la fiducia alla Camera e poi si proseguirà. Grazie Guido Gentili del Sole 24 Ore. Ciao Guido. Buona serata. I vostri messaggi continuano sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Dice per esempio Davide, lancia questo gioco, quale sarebbe il gioco trovate le differenze tra governo Renzi e governo Gentiloni? A tra poco. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. Se volete avere tutta la lista dei ministri, delle ministre, potete andare sulla pagina Facebook di Effetto Notte, perché ve l'ho postata lì appena uscita, e poi ci sono anche tutti i vostri messaggi, commenti, chi è più o meno d'accordo, chi chiede di andare a elezioni subito, chi dice come la Boschi è lei l'autrice del progetto di riforma e poi invece mentre Renzi si dimette lei galleggia. Insomma, ne abbiamo parlato, abbiamo cercato di dare un'interpretazione alle scelte politiche di questo governo, adesso vediamo come procederà. 349-238-6666 per messaggi e WhatsApp, oppure appunto per sempre per le vostre interazioni c'è la pagina Facebook di Effetto Notte. Tra per esempio i messaggi dice questo ascoltatore, bravo Gentili, non ci crede nemmeno lui, Mariano da Vicenza nel governo, non ha detto questo, ha detto bisogna vedere che cosa, se riuscirà ad affrontare certe priorità, in che modo. E poi per un altro ascoltatore dice a me sembra un governo ricattabile da tutti, questo di Gentiloni, mentre un'altra ascoltatrice o ascoltatore scrive le parole in politica valgono solo per il momento in cui vengono pronunciate. E vabbè, questo si sa. Direi che adesso vi ricordo velocemente quali sono le notizie più importanti e poi passiamo al prossimo tema. Nasce il governo Gentiloni, ha giurato domani alle Camere per il voto di fiducia, Alfano fra i vari ministri agli esteri, Boschi sottosegretario alla presidenza, Lotti allo sport, Renzi oggi alla direzione del PD ha detto ci vuole prima il congresso e poi si va a elezioni. Intanto all'unanimità la direzione PD ha dato via libera al nuovo esecutivo, ma la minoranza chiede di cambiare rotta. E poi MPS, Monte dei Paschi che rilancia l'operazione mercato, il titolo vola in borsa, in calo secondo il Ministero del Lavoro i contratti stabili, aumentano i licenziamenti, il PIL spacca l'Italia, Aosta prima per qualità nella vita nella classifica del Sole 24 Ore. Poi per il posticipo di Serie A, Roma-Milan prosegue 0-0. Parliamo adesso dell'inchiesta sulle morti sospette all'ospedale di Saronno vicino Varese, vicenda per la quale, lo sapete, Leonardo Cazzaniga, il vice primario del pronto soccorso dell'ospedale di Saronno, è ora in carcere con l'accusa di 5 omicidi di 4 pazienti, cioè, e il quinto sarebbe il marito della sua amante compagna Laura Taroni, anche lei in cella. Oggi è stato ascoltato dai PM Paolo Valentini, ex direttore sanitario dell'ospedale, e ci sono anche delle dichiarazioni dell'infermiera che portò a questa inchiesta con la sua denuncia. Ne parliamo con Andrea Galli, giornalista del Corriere della Sera. Ciao Andrea. Ciao, buonasera a tutti. Ci aggiorni quindi su quelle che sono le novità, come procede questa inchiesta? Ma è stato lunghissimo oggi l'interrogatorio di Valentini, gli altri sono stati in gran parte secretati, l'avvocato dice che Valentini ha detto tutte le cose che voleva dire e soprattutto ha tenuto a precisare il dottore che se all'epoca avesse saputo di sicuro sarebbe corso a denunciare. Ora c'è un po' però in realtà un'altra corsa, cioè di tanti dei protagonisti negativi di questa inchiesta che all'epoca rimasero zitti e adesso parlano per ore e ore e ore, nel senso che anche Valentini, se oggi dice avessi saputo, all'epoca poteva sapere perché nel 2013, quindi ben 3 anni fa, venne istituita un'apposita commissione per indagare dopo le prime denunce dei due infermieri sull'operato di Cazzaniga, ma ricordiamolo per l'ennesima volta, questa commissione non solo non decise niente, non solo non prese provvedimenti, non solo non ascoltò gli infermieri denuncianti, ma non si riunì mai nemmeno una volta e si limitò a uno scambio di email per poi arrivare alla conclusione che non c'era nessunissimo problema. Quindi sembra sempre strano, nel senso che si stanno aumentando gli interrogatori fiume molto molto lunghi, tutti stanno dicendo un sacco di cose, però tutti dicono che all'epoca non sapevano nulla. Quando invece avrebbero dovuto parlare. Sì, la stessa infermiera no, dice che lei aveva segnalato più volte. Aveva denunciato sia andando dai carabinieri, ma poi nel contempo continuava comunque a denunciare, nel senso che lo diceva ai colleghi. Non stiamo parlando di un ospedale enorme, nel guardo policlinico di Milano, le cose si sapevano, ma questa infermiera venne sia da Cazzaniga minacciata di morte affinché non dicesse più nulla, e sia fondamentalmente da tutto il resto dell'ospedale che, ripeto, secondo me sapeva, invitata a starsene zitta buona, altrimenti avrebbe perso il lavoro. È stata minacciata, no? Lei stessa l'ha detto anche. Era stata minacciata di morte da Cazzaniga, che le augurava un tumore all'ovaie, che potesse andare il più possibile, sì, da tutto quanto. Senti Andrea, quanti sono per il momento, a parte appunto Cazzaniga e Laura Taroni che sono in carcere, ma gli indagati in questo momento quanti sono? Gli indagati non si sa, di sicuro ci sono i 5 componenti di quella fantomatica commissione. E poi il numero non è ancora certo, nel senso che ondeggiamo, diciamo, tra un range tra le 25 e le 35, però non si sa ancora con certezza quanti siano, anche perché ci sono molti filoni delle indagini che stanno andando avanti, quindi può darsi che poi ne arrivino di altri. Le morti sospette invece quante sarebbero, più o meno, sulle quali stanno indagando? Poi bisogna capire. Di sicuro c'erano stati 5 anziani all'interno dell'ospedale, però teniamo conto che almeno 20 parenti di altri familiari, secondo i quali i loro familiari sarebbero deceduti per malasanità, sono circa una ventina. E poi bisogna aggiungere la mamma della Taroni, il marito della Taroni, sempre che poi dopo, continuando a scavare, non saltino fuori altre morti ancora all'interno del cerchio familiare. Se fosse vero, insomma, sarebbe una strage, ma aspettiamo, vediamo i prossimi sviluppi dell'inchiesta. Intanto grazie Andrea Galli del Corriere della Sera. Ciao Andrea, buon lavoro. Direi viabilità, sì. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta... Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Notizie che ora vi ricordo in pochi secondi, Roberta Giordano sempre con voi, continuano i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666, state commentando la composizione di questo governo, i vari ministri, le scelte eccetera. Vi ricordo che appunto è nato il governo Gentiloni, 18 ministri con molte conferme, 5 new entry, Alfano agli esteri, Boschi sottosegretaria alla presidenza del Consiglio, Lotti allo sport, stroncatura da parte delle opposizioni, D'Alema attacca e dice così saremo travolti alle prossime elezioni, e poi c'è lo strappo di Verdi

a centro area, l'attaccante rossonero stava a liberarsi anche di Chesney, il portiere della Roma, che invece lo ha atterrato. Rigore netto sul dischetto, ancora una volta Niang, che già aveva fallito dagli 11 metri contro il Crotone, e allora è stato un errore senza gravi conseguenze perché il Milan ha vinto per 2-1. Questa volta Niang si è fatto ancora una volta incantare da Chesney in questa occasione, che ha respinto la sua conclusione in angolo, quindi niente di fatto, è ancora 0-0 dopo 45 minuti di gioco. Dario, invece nessuna novità per quanto riguarda il pallone d'oro, è abbastanza monotona questa cosa, no? Ma è vero, Ronaldo, infatti, diciamo che Messi e Cristiano Ronaldo se lo spartiscono ormai con una certa regolarità. Vabbè, ma lo prende sempre Ronaldo alla fine. Ma no, l'ha vinto anzi più volte Messi, figurati. Questo è il quarto, quindi... però, il quarto che prende Ronaldo, o sbaglio, Cristiano Ronaldo? Sì, è il quarto, ma Messi ha fatto anche meglio, quindi insomma, fidati. mi fido. Sono loro due i grandi dominatori del calcio del terzo millennio, ma è vero che magari i giurati non hanno grande fantasia, ma ragazzi, questi sono proprio forti. Quest'anno non poteva vincerlo nessun altro, perché Ronaldo ha vinto il campionato, la Champions League con Real Madrid, trasformando il calcio di rigore decisivo nella finale di Milano contro l'Atletico Madrid, e poi ha vinto gli Europei di Francia, te lo ricorderai, no? In quella finale in cui uscì dopo pochi minuti con un brutto infortunio al ginocchio in lacrime, e si trasformò in allenatore del Portogallo che batté a Parigi proprio la Francia. Insomma, Dario, si potrebbe chiedere a Ronaldo cosa vuoi di più? Nel senso, è bello, è ricco, bravo. Sì, lui credo che, essendo un grande perfezionista e un grande atleta, molto meticoloso, ti direbbe: beh, vorrei un'altra Champions League, il campionato del mondo che ancora non ho vinto col Portogallo, e un altro pallone d'oro, perché è un grandissimo lavoratore, ha detto degli allenatori che lo hanno seguito da vicino, ed anche ha fame di vittorie, che è un grandissimo agonista, ed è un'altra prerogativa dei grandi campioni. Abbiamo 31 secondi per i sorteggi della Champions, Dario. 31 sorteggi, allora sorride la Juventus, perché comunque col Porto se la può giocare, come non è certo una delle big d'Europa. Col Porto la Juventus vinse tra l'altro nel 83-84 la sua unica Coppa delle Coppe. È tutto un sorriso la Juventus, sì? Cosa dicevi? È tutto un sorriso la Juventus stasera. Sì, direi di sì al momento, ma la partita dell'Olimpico è appena alla metà, vediamo come va a finire. Mentre mastica un po' amaro il Napoli, che pesca il Real Madrid, appunto, di Cristiano Ronaldo, campione d'Europa in carica, devo dire che Partenopea l'hanno presa anche bene, perché insomma a quel punto è meglio giocarsela con i più grandi, e poi il ritorno sarà al San Paolo. Grazie Dario Ricci, noi ci sentiamo brevemente alle 22.